Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera ragazze, noi siamo nel confessionale di Grande Sorella e sono in compagnia di... Luana e Federica. Ciao ragazze, allora come procede innanzitutto la serata? Alla grande, alla bomba, bellissimo! Fantastica! Io mi sto divertendo una cifra! A bombazza! Ah, ok, avvicinati al microfono okay. Così ti sentono bene. Perfetto. Allora, innanzitutto... Posso passarlo perché mi sa che... No, non penso che sia abbastanza. No, va bene, basta. Sono Luana, che non ha ragione. Cazzo. Vabbè, non si può avere tutto dalla però vita. Non hai le scarpe alte, c'è cioè da dire no, questo. No, hai ragione. Quindi sei giustificata, dai, ragione, il tacco aumenta tutto un po' di livello. Hai ragione. 1,50 m, pure io c'ho le scarpe 1,55 m, prego, basta, 5 cm fanno tanto nella vita. Fanno tanto. Poi nella botte detto piccola c'è il vino buono. Esatto, guarda la buona intenditrice come capisce. Allora, innanzitutto quando ti sposi? Il 15 settembre 2023. Quindi prossima, sì. Prossima, dopo meno l'estate. 83 giorni, sì. Mamma mia, porti proprio il conto, sì, countdown. Che ansia. Sì. Sei pronta, hai preparato tutto? Sì, di brutto, sono sul pezzo su tutto, mi mancano giusto i piccoli dettagli. Però dai, ci siamo, sono un po' esaurita, ma tutto sotto controllo. Ricordatela questa positività però, Le tue amiche ti hanno organizzato questa serata proprio per toglierti sì, tutta quest'ansia che hai. Mi sto divertendo tantissimo, sto proprio scaricando tutta la tensione. Ci voleva. Sì. Allora mi raccomando, quando esci da qui dentro, un grazie a tutte le tue amiche che hanno avuto questo grandissimo pensiero. Io le lovo le mie amiche, uno per una, io vi lovo. Anche se non ci sentono, penso fa che niente, abbia capito. Sì. Allora, come si chiama lo sposo? Giovanni. Oggi sono Giovanni? Sì, tra l'altro, l'ho abbandonato a casa da solo. Sì. Potevi dirci che facevamo sì. gli auguri, però. Davvero, non lo sapevate? No. Adesso è passato il santo. Vabbè, pazienza. Passato santo, passato la fine. Festa. Esatto. Cosa hai trovato qui fuori più o meno di anormale? Di anormale? Tutto. Sì, esattamente, praticamente sì. Perché tutto. Ti vedo che sei abbastanza lucida? Guarda, una roba... Cioè sono qui ma non sono qui. Ma tutto sotto controllo, come dico sempre. Tutto sotto controllo. Sì. Mi piace un casino poi il tuo collega che assomiglia Sandrino. A un po' Ligabue e il chitarrista di Vasco Rossi. Adesso mi sfugge il nome. Ma se ti piaceva quello che assomigliava a De Martino. Tra l'altro avete un bodyguard ragazzi. Stefano tanta De Martino roba. Mamma mia ragazzi, buon ragazzo. E ti complimenti alla mamma e al padre. Mamma veramente mia. Hanno fatto uno ce spettacolo. Ce ne sono pochi più o meno così. Sì, infatti stasera lo special guest della serata. Mamma mia, quando passa proprio un raggio di sole. Vabbè, basta okay, io lo dico però, i complimenti vanno fatti. Anche ragazzi. Se ovviamente io lovo il mio Giovanni, eh. Vabbè sì, però gli occhi sono fatti per guardare, c'è da dire sì, la realtà sì, dei sì. fatti. Però il mio cuore è il tuo cuore è a casa. Sì, sì, sì, però questa sera il cuore è Stefano De Martino, il nostro. Mazzate, cioè. Ma pezzega. Cosa ci dici tu? Cosa vuoi raccontare alla sposa? Una qualche domanda, un qualcosa di particolare? Gli vuoi chiedere? Fammi domande scomode perché dai, adesso come la vedo carica stasera ci vuole una bella domanda, sai com'è? È molto pericolosa. Il mio mandrillo. Il mio pesciotto, penso che sia con il tuo di mandrillo. Ah, bene, si fanno compagnia sono, a vicenda. Sì, tutti gli uomini mi sa che sono a casa di qualcuno insieme. A casa mia, quindi... Boh, non lo so. Non oso immaginare dopo a casa tua cosa trovi. No, non sono a casa mia, meno no, male. Mi sa che è a casa di un'altra mia amica. Poverina. Che è dell'altra. Che tra l'altro poverina è anche incinta. Mio Dio. Io ne ho qua due che sono incinte. Un'altra a casa cosa che ha appena partorito. Fa, lei è mamma di due figli, so che non sembra perché è una strafiga. La Ste invece, vabbè, la Ste c'ha l'amichetto, ma boh. Io la amo, è fantastica. Sì, soprattutto sì. Lei, è fantastica. È vero. È fantastico, io non oso immaginare il giorno del matrimonio. Cacchio, ma tu hai da fare il 15 settembre? Vuoi venire al mio matrimonio? Facciamo un po' di radio, un po' di cose, eh? Ci organizziamo. A disposizione, dimmi tu. Però questa roba è fighissima, mi piace, facciamo... Però, sai cosa secondo me è bello al matrimonio? Intervistare tutti gli invitati e chiedere, diciamo, più o meno quello che pensano degli sposi. Mazza, lì è un bordello. Mi sa che c'è chi va bene e chi non va bene. No, più che altro che non so se arriviamo all'aperitivo almeno, cioè tagli no sicuramente. Vabbè, però nel confessionale ne sa il confessionale, poi gli sposi lo sapranno a fine giornata. Mamma mia, figo però. Ma studiamo. Si può fare secondo me, eh. Comunque vabbè, l'invito è sempre aperto. Grazie. Se dove voglio... siete ragazze? Di Varese. Di Varese, sì. Se vuoi io ti lascio il mio nome, ci sentiamo, organizziamo. Che problema c'è ragazzi? Ho detto guarda, fatto, così si fa nella vita. Guarda che escono secondo me belle interviste quel giorno, Poi vedo una gran topona come te, anche i maschietti sono belli contenti. Stanno dentro nel confessionale. Sì, stanno tutto il giorno nel confessionale, secondo me. Se li togli da fuori, non ci sono più fuori, sono tutti dentro. Fidati, fidati, compreso il mio futuro marito. Oh, il tuo futuro marito lo lascio. Sì, che gli piacciono le ricce, quindi farei un bel regalo. Ah, vabbè. Non viene. Non viene. Come non viene? Per non farti un torto non viene. Dici che non viene. Vabbè. No, no, quel giorno ti può mai fare un torto del genere. No, vabbè. Sarai tu la più bella per lui. Mamma mia, non come ci pensare. Che ansia. Che mi sale l'ansia. Mamma mia, non mi stai trasmettendo l'ansia. No. Fermiamoci. Fighissimo però. Da quanto tempo state insieme? 8 anni. Mamma mia, tanto. E 2 anni di convivenza, sì. Tra l'altro abbiamo comprato casa nel 2018, poi abbiamo superato tutto quello, anche il Covid, durante la ristrutturazione, poi c'è stato il Covid, ci siamo fermati. Diciamo che ne abbiamo passate di belle insieme, quindi... Quindi è lui. Sì, esatto, è lui. Bravissima. Dopo che uno sorpassa tutti questi periodi, allora sappiamo che è lui. Sì, assolutamente sì. Anche lo perché dopo la convivenza, cioè io penso che sia dopo la convivenza se sai che una persona sì, è fatta per te nove, meno. No? Perché sì. Conosci H24 quella persona. E ti do, in lui tutti è stato sensi. Molto bravo perché io, vabbè, i miei genitori sono separati, ho vissuto con mamma, così quindi io il distacco dalla mia mamma e dalle mie sorelle l'ho sentito tantissimo. E lui è stato bravo a supportarmi quando avevo i miei momenti di crisi e a sopportarmi perché giustamente, ragazzi, so che sono una croce. Ma è consapevole, però, conferma sì. L'amica, voi non la sì. Vedete ma conferma. Però no, se è bravi, cioè non lo cambierei proprio con nessuno. No, allora è confermato. Sì. È lui, Giovanni, sì. Ti aspetta. Ciao Giovanni, non so se mi senti. Ciao amore mio. Va bene. Sei promosso. A pieni voti. Allora, sei sicuro che ti dirà sì sull'altare? Assolutamente sì. Non ci sarà mai un rifiuto. No. E verrà soprattutto. E stai scherzando, puntuale come un orologio. Guai se non sei puntuale tu, Ti faccio sentire. Mi sentirei male. Inizia l'ansia ancora di più. No. Va bene ragazzi, io vi lascio aspettare per farvi questa cantata. Speriamo perché abbiamo anche 2 gravide, non voglio che mi muoiano qua. No, assolutamente. Va bene, grazie ragazze, simpaticissime. Anche tu. Ciao bella.